zaffiro bruet, yeah, è lo zoo di Berlino. La mia diva è un vampiro ed è pazza di me. Sei più bella dal vivo. Lei che balla è la donna del boss davanti a un jukebox Tarantino. Con quei bravi ragazzi è delirio e De Niro. Ci balliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam. Modella d'ore bam bam, bam bam. Ragazzi fuori bam bam, bam bam. Adrenalina. Siamo sopra il bancone, io e te, io e te. Sì, sia una rapina. Svuoto le tasche, mi riempio di te. Sì, donna bambina. È una madonnina che piange per me. Rovinare da te, ci balliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, modellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, oh sì, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, è un'overdose di rose, mio amor, è una danza tra scheletri. Una pallottola dal mio jukebox. Stiamo dando fuoco ai sedili, una gabbio rosa, mio amore. Questa è vita per noi. Non c'è città che basti per noi. La tua gonna è Las Vegas. Toglila poi. Diremo solo un ricordo che ho rimosso. Fammi fuori bam bam, bam bam.